Il lupo e la volpe davanti al tribunale della scimmia. Da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, luglio 2007, Roma. Un lupo che accusò di ladreria una volpe birbona sua vicina, ovvero falsa che l'accusa sia, davanti al tribunal d'una Bertuccia senza tanti avvocanti la trascina. A memoria di scimmia imbroglio simile giammai non s'era visto, anzi si dice che a distrigare il bandolo la Bertuccia sudò quattro camicie. Dopo molte proteste, grida e repliche, il giudice, che è vecchio del mestiere, basta, risponde loro, o vero o falso, pagate entrambi e che la sia finita. Tu, lupo, paga perché hai figura d'accusator bugiardo e tu perché sei ladra di natura. Pensò la scimmia, a torto da ragione, che il luogo dei birbanti è la prigione. Fine della favola, il lupo e la volpe davanti al tribunale della scimmia. Questa registrazione è di dominio pubblico.